Friuli nel mondo, 194esima trasmissione dedicata agli emigrati, le villotte di Arturo Zardini. Nel centenario della nascita di Arturo Zardini vi trasmettiamo, cari amici lontani, un secondo gruppo di villotte che il geniale poeta e musicista volle comporre per ravvivare la tradizione del canto popolare del Friuli. La musica di Zardini, più viva che mai, parla oggi al cuore di tutti i friulani con lo stesso ardore del tempo passato. Ascoltate, di Chiurlo e Zardini, La lune puartade, di Zardini, Il salut, di Chiurlo Zardini, Buine sere chiase scure, di Carletti e Zardini, L'ave, di Zardini, Serenade, di Zorutti e Zardini, Cematine. Il bollare Signor, scolta la mia preghiera.